Europa 24. La transizione non è finita e che l'Europa e l'euro sono ancora sotto osservazione. A parlare così poco fa il Presidente del Consiglio Enrico Letta, termine del Consiglio europeo, un Letta che sta ancora parlando in questi minuti, come diceva anche poco fa Simone Spezia, un Consiglio europeo che ha visto sì un accordo sull'unione bancaria, un accordo molto atteso, ma sul quale proprio oggi è calata la scure della bocciatura di Standard & Poor's. Allora facciamo il punto sulla giornata partendo proprio dalle parole di Enrico Letta con il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Buongiorno da Bruxelles, è tuttora in corso la conferenza stampa del Premier Enrico Letta che sta andando avanti ormai da circa tre quarti d'ora. Letta ha esordito parlando proprio dell'accordo sull'unione bancaria, lo ha definito un passo significativo di cui si parlerà ancora per il tema, per il momento e per la rapidità, ma ha criticato la fase di transizione con cui si arriverà a un fondo comune di risoluzione. Ha detto 10 anni sono veramente troppi, spero ce la si farà anche prima. Comunque insomma un risultato per Letta positivo, ha ripetuto la metafora del bicchiere mezzo pieno. Ovviamente ha commentato il downgrade di Standard & Poor's all'Europa dalla tripla A doppia A più, un downgrade che farà discutere, la dimostrazione, come abbiamo sentito poco fa nelle sue parole, che la transizione non è finita, però ha poi aggiunto Enrico Letta, non credo che questo downgrade sia meritato, ma bisogna farci i conti. Poi ha aggiunto, il tempismo comunque suona un po' sospetto proprio nel secondo giorno del vertice europeo e il giorno dopo l'accordo sull'unione bancaria. Infine Letta ha parlato, venendo all'Italia, anche di legge di stabilità, segna un'inversione di marcia, ha detto tutti chiedono, ma la somma di queste richieste che arrivano al governo, a Palazzo Chigi, è la bancarotta, mi assumo la responsabilità delle scelte. Per meglio chiarire il concetto ha fatto ricorso a un'immagine che è quella del padre di famiglia contrapposto a Babbo Natale. Sentiamo le sue parole. Si conclude il 2013 con questo importante passo avanti. Se lo avessimo fatto prima avremmo evitato tanti danni sociali ed economici all'Europa, l'unione bancaria. E questa intesa e questo accordo, in questo caso il tempo conta molto. Trovarla subito è stato molto importante, molto significativo. Secondo me è un messaggio forte che noi diamo ai mercati, al resto del mondo, ai risparmiatori che hanno vissuto con giustamente il panico, le crisi anche recenti, non molto tempo fa, Cipro, cos'è stato? Febbraio, marzo, quindi stiamo parlando di vicende che non sono così lontane, sono ancora dietro le nostre spalle, e d'altronde il downgrading di Standard & Poor's è la dimostrazione, ripeto, che l'Europa e noi siamo tutti ancora sotto osservazioni e quindi è assolutamente necessario mantenere la prudenza del buon padre di famiglia. Lo dico a tutti coloro che in Italia vorrebbero che invece del buon padre di famiglia ci fosse Babbo Natale. E grazie al nostro Sergio Nava da Bruxelles, dove anche l'altro inviato Enrico Brivio. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Allora, cosa resta di questi 2 giorni, i successi e cosa si poteva forse fare di più? Sì, senz'altro quello sull'unione bancaria, che è un po' il tema che ha dominato il vertice, è stato un compromesso che appunto può essere visto in chiave positiva se si pensa appunto al passato, perché è comunque un meccanismo di salvataggio delle banche che ha degli aspetti comunitarizzazione europea, che quindi dovrebbe evitare ripetersi di gravi crisi, però si tratta di un sistema che verrà allestito pezzo dopo pezzo nell'arco di 10 anni, un periodo, come ha detto anche Enrico Letta, decisamente troppo lungo. Restano, perciò si fanno dei passi avanti sul fronte dell'unione bancaria, si rilancia l'idea di una difesa comune, però restano grosse sfide da combattere l'anno prossimo, che tra l'altro vedrà l'Italia alla presidenza nel secondo semestre del 2014, perché vi sono ancora molte leve da azionare sia per far rilanciare l'occupazione, la crescita e sia sul fronte di quei famosi contratti le riforme che l'Italia vuole trasformare in incentivi per i governi per rilanciare crescita e occupazione. Quindi molte cose restano sul tavolo, qualche passo avanti sul fronte dell'unione bancaria. Grazie ad Enrico Brivio. Europa 24 si ferma qua. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.